5. Il capodanno si avvicinava e in ogni casa del paese fervevano i preparativi. Wang Lung andò nel negozio del candelaio in città e comprò quadrati di carta rossa sui quali erano dipinti in inchiostro dorato i caratteri che significavano felicità e alcuni con i caratteri che significavano ricchezza e li incolò sugli attrezzi del lavoro perché gli portassero fortuna nel nuovo anno. Sull'aratro, sul gioco del bue e sui due secchi in cui portava il fertilizzante e l'acqua, su ognuno di questi incollò un quadrato e poi sulle porte della sua casa incollò lunghe strisce di carta rossa su cui erano state scritte formule di buona fortuna e sopra la soglia mise una frangia di carta rossa ritagliata abilmente con grande finezza, che riproduceva un motivo floreale, e comprò carta rossa per fare vestiti nuovi per gli dèi e il vecchio con le sue mani tremanti riuscì a farli abbastanza bene. Wang Lung li prese e li mise alle due piccole divinità nel tempio dedicato alla terra e bruciò davanti a loro un po' d'incenso in omaggio al capodanno e per la casa comprò due candele rosse da bruciare la vigilia sul tavolo sotto l'immagine di una divinità incollata sulla parete della stanza centrale. E Wang Lung andò un'altra volta in città e comprò grasso di maiale e zucchero bianco e la donna rese il grasso morbido e bianco e prese della farina di riso ottenuta macinando il loro riso tra le mole a cui potevano attaccare il bue quando ne avevano bisogno. E prese il grasso e lo zucchero e li mescolò e impastò ricchi dolci di Capodanno chiamati dolci della luna, come quelli che si mangiavano nella casa dei Huang. Quando i dolci furono disposti a file sul tavolo, pronti per essere cotti, Wang Lung si sentì il cuore gonfio di orgoglio. Non c'era nessuna donna nel paese capace di fare ciò che aveva fatto la sua, dolci come quelli che solo i ricchi mangiavano per la festa. In alcuni aveva messo piccole bacche rosse l'una in fila all'altra e prugne verdi secche, formando fiori e ghirlande. «È un peccato mangiarli», disse Wang Lung. Il vecchio ciondolava attorno al tavolo, contento come un bambino nel vedere quei colori brillanti. «Chiama mio fratello», disse, «tuo zio e i suoi figli, falli venire a vedere». Ma la prosperità aveva reso cauto Wang Lung. Non si poteva chiedere a degli affamati soltanto di guardare i dolci. «No, porta sfortuna guardarli prima del Capodanno», rispose frettolosamente. E la donna, le mani impolverate della fine farina di riso e appiccicatice per il grasso, disse: «Questi non sono per noi, se non un paio di quelli semplici da far assaggiare agli ospiti. Non siamo abbastanza ricchi da mangiare zucchero bianco e lardo. Li sto preparando per la veneranda signora della grande casa. Porterò là il bambino il secondo giorno del nuovo anno e offrirò i dolci come regalo». Allora i dolci divennero più importanti che mai e Wang Lung fu contento che ora sua moglie sarebbe entrata come visitatrice nella grande sala dove lui si era trattenuto un tempo così timoroso e povero e vi avrebbe portato suo figlio vestito di rosso e dolci fatti con i migliori farina e zucchero e lardo. Tutto il resto durante quel capodanno passò in secondo piano rispetto a quella visita. La nuova giubba di cotone nero che Olan aveva cucito per lui, quando l'ebbe indossata, gli fece dire soltanto, rivolto a se stesso: «La metterò quando li accompagnerò al portone della grande casa». Trascorse distrattamente il primo giorno del nuovo anno, quando suo zio e i vicini, allegri e chiassosi, entrarono tutti insieme in casa con cibo e bevande per fare gli auguri a lui e a suo padre. Si era assicurato che i dolci colorati fossero stati riposti nel cesto per non doverli offrire a persone comuni. Eppure faticò quando i dolci semplici furono lodati per come sapevano di zucchero e grasso a non esclamare: «Dovreste vedere quelli colorati!». Ma non lo fece perché più di tutto voleva mettere piede con orgoglio nella grande casa dei Huang. Poi, il secondo giorno del nuovo anno, quando le donne si fanno visita dopo che gli uomini hanno mangiato e bevuto bene il giorno prima, si alzarono all'alba e la donna mise al bambino la giacchetta rossa e le scarpe con la faccia di tigre che aveva fatto. E sulla testa che Wang Lung stesso gli aveva rasato l'ultimo giorno del vecchio anno, pose il berretto rosso col piccolo Buddha dorato ricamato sulla fronte e lo mise a sedere sul letto. Poi Wang Lung si vestì in fretta, mentre sua moglie si pettinava i lunghi capelli neri e li legava con il fermaglio di ottone placcato d'argento che lui le aveva comprato. E lei indossò la nuova giubba nera, fatta della stessa stoffa della sua veste nuova. 24 piedi di buon tessuto per entrambi e 2 piedi aggiunti in sovrappiù per la quantità acquistata, come abitudine nei negozi di stoffe. Poi si incamminarono, lui portando in braccio il bambino e lei i dolci nel cesto, lungo il sentiero attraverso i campi, ora spogli per l'inverno. Wan Lung ebbe poi la sua ricompensa al grande portone della casa dei Huang, quando il guardiano, arrivato al richiamo della donna, spalancò gli occhi nel vederli, rigirò i 3 lunghi peli che spuntavano dal neo ed esclamò: «Ah, Wang il contadino! 3 adesso invece di uno!» E vedendo gli abiti nuovi di tutti e il bambino che era suo figlio, continuò: «Oh, non c'è bisogno di augurarti quest'anno più fortuna di quella che hai avuto l'anno scorso!» Wang Lung rispose in tono noncurante, come quando si parla a una persona di livello non esattamente pari al proprio: «Buoni raccolti, buoni raccolti!» E varcò con fare sicuro il portone. Il guardiano era colpito da tutto quel che aveva visto e disse a Wang Lung: «Siedi nella misera stanza mentre annuncio all'interno tua moglie e tuo figlio.» E Wang Lung li osservò attraversare il cortile, sua moglie e suo figlio, portando doni alla padrona della grande casa. Tutto andava a suo onore, e quando non riuscì più a vedere le figure, che dopo aver percorso sempre più piccole la lunga teoria dei cortili, erano scomparse del tutto, entrò nella casa del guardiano e accettò, come un fatto scontato, la sedia d'onore alla sinistra del tavolo nella stanza centrale che gli aveva indicato la moglie del guardiano, il cui viso era segnato dal vaiolo. Con un leggerissimo cenno del capo, accettò la ciotola di tè che lei gli porse e la posò davanti a sé e non beve, come se la qualità delle foglie di tè non fosse abbastanza buona per lui. Il guardiano tornò dopo quel che parve un lungo lasso di tempo accompagnando la donna e il bambino. Wang Lung guardò da vicino il viso della donna per un istante, tentando di capire se fosse tutto a posto, perché ormai aveva imparato a riconoscere in quelle fattezze squadrate e imperturbabili piccoli cambiamenti che all'inizio erano stati invisibili per lui. La sua espressione mostrava tuttavia una grave contentezza, e Wang Lung fu colto subito dalla curiosità di sentire cosa fosse successo nei cortili delle donne dove a lui non era permesso andare, ora che non aveva niente da cercarvi. Con brevi inchini, al guardiano e alla moglie segnata dal vaiolo, si affrettò dunque a condurre fuori Olan e prese in braccio il bambino che dormiva tutto rannicchiato nella giubbetta nuova. «E allora? E allora?» esclamò alle proprie spalle, poiché lei lo seguiva. Per una volta la sua lentezza lo rendeva impaziente. Lei gli si avvicinò un po' e disse in un sussurro: «Se proprio vuoi saperlo, ho l'impressione che quest'anno non stiano navigando tanto in buone acque.» Il tono era sconvolto, come se parlasse di divinità che avevano fame. «Cosa vuoi dire?» insisté Wang Lung. Ma lei non si lasciò indurre alla fretta, considerava le parole cose da afferrare una per una e da rilasciare poi con calma. «La veneranda signora indossava la stessa giacca dell'anno scorso. Non l'ho mai visto succedere prima. E le schiave non avevano giacche nuove.» Fece una pausa e continuò: «Non ho mai visto nemmeno una schiava con una giacca nuova come la mia.» E dopo un po' disse nuovamente: «E nostro figlio, poi, non c'era un solo bambino, persino tra le concubine del vecchio padrone, paragonabile a lui per bellezza e vestiti.» Un lento sorriso si aprì sul suo volto e Wang Lung rise forte e strinse teneramente a sé il bambino, come aveva fatto bene, come aveva fatto bene! E mentre si abbandonava alla gioia, fu colto dalla paura. Che follia, camminare a quel modo sotto il cielo aperto con un bel bambino che ogni spirito maligno che per caso fosse passato nell'aria avrebbe visto. Aprì subito la giacca e vi infilò la testa del bambino e disse a voce alta: «Ah, peccato che ci è capitata una femmina che nessuno vorrebbe e rovinata dal vaiolo. Preghiamo che possa morire.» Sì, disse sua moglie più in fretta che poté, comprendendo vagamente cosa avevano fatto. E sentendosi un po' più tranquillo dopo quegli scongiuri, Wang Lung interrogò un'altra volta sua moglie. Hai scoperto perché sono più poveri? Ho potuto parlare solo un attimo con la cuoca sotto la quale lavoravo un tempo, rispose, ma mi ha detto: questa casa non può andare avanti in eterno con tutti i giovani signori, e sono cinque, che in terre forestiere spendono soldi come fossero acqua, e mandano a casa una donna dopo l'altra quando se ne stancano. E il vecchio padrone che ogni anno si prende una o due nuove concubine, e la veneranda signora che ogni giorno consuma tanto oppio da riempire d'oro due scarpe. Davvero? Mormorò Wang Lung incantato. E la terza figlia deve essere sposata in primavera, continuò Olan. E la sua dote è principesca, abbastanza da comprare un impiego da funzionario in una grande città. Per i suoi vestiti non vuole altro che il raso più fine, con fantasie speciali, tessuto a Shuqiao e a Hangqiao, e pretende un sarto venuto da Shanghai con il suo seguito di aiutanti perché non vuole che i suoi vestiti siano meno alla moda di quelli delle donne nelle terre forestiere. E chi sposerà allora con tutte queste spese? Disse Wang Lung, pieno di ammirazione e spavento al pensiero di un tale dispendio di ricchezza. Deve sposare il secondo figlio di un magistrato di Shanghai, disse la donna, e dopo una lunga pausa aggiunse: devono essersi impoveriti perché l'anziana padrona mi ha detto che vogliono vendere dei campi. Un po' di campagna a sud della casa, appena fuori dalle mura della città, dove hanno sempre piantato riso ogni anno, perché è buona e può essere facilmente irrigata dal fossato attorno alle mura. Vendere la campagna, ripeté Wang Lung convinto. Allora si stanno impoverendo davvero. I campi sono la carne e il sangue di una persona. Rifletté per un po' e all'improvviso lo colse un pensiero. E si colpì un lato della testa con il palmo della mano. Cosa non ho pensato? Gridò rivolto alla donna. Lo compreremo noi quel campo. Essi guardarono fissi, lui entusiasta, lei sbalordita. Ma il campo? Il campo? Balbettò lei. Lo comprerò! Esclamò lui con voce altera. Lo comprerò dalla grande casa dei Huang. Ma è troppo lontano, disse lei costernata. Dovremmo camminare metà della mattina per arrivarci. Lo comprerò, ripeté lui con stizza, come se avesse ripetuto una richiesta alla madre che l'aveva contrariato. Comprare campi è una buona cosa, disse lei tranquillamente. È certo meglio che mettere i soldi in un muro di fango, ma perché non un pezzo dei campi di tuo zio? Dice ai 420 di voler vendere quella striscia vicino al campo occidentale che abbiamo adesso. La campagna di mio zio, disse ad alta voce Wang Lung, non la voglio. Ne ha strappato sì e no un raccolto per 20 anni e non ci ha messo letame o fertilizzante di fagioli. Mai. Il suolo è come calce. No, voglio comprare il campo dei Fang. Disse il campo dei Fang con noncuranza, come se avesse detto il campo di Ching. Ching, che era il suo vicino contadino. Sarebbe stato più che alla pari di quella gente nella grande casa dissennata. Sarebbe andato con l'argento in una mano e avrebbe detto semplicemente: ho i soldi. Qual è il prezzo della campagna che volete vendere? Sentì se stesso dire all'anziano signore e al suo agente: consideratemi come chiunque altro. Qual è il prezzo giusto? Ce l'ho in mano. E sua moglie, che era stata una schiava nella cucina di quell'orgogliosa famiglia. Sarebbe stata la moglie di un uomo che possedeva un pezzo della campagna, che per generazioni aveva fatto grande la casa dei Huang. Fu come se lei avesse intuito il suo pensiero, perché all'improvviso abbandonò ogni resistenza e disse: compriamola. Dopotutto la campagna da riso è buona ed è vicina al fossato e possiamo avere acqua ogni anno, è sicura. E di nuovo quel lento sorriso si aprì sul suo volto, quel sorriso che non illuminava mai l'opacità dei suoi stretti occhi neri, e dopo una lunga pausa disse: l'anno scorso a quest'ora ero una schiava là dentro. E continuarono a camminare in silenzio, colmi dell'intensità di quel pensiero. 6. Quel pezzo di campagna che Wang Lung adesso possedeva cambiò profondamente la sua vita. All'inizio, dopo aver preso l'argento nascosto nel muro per portarlo nella grande casa, dopo che l'onore di parlare alla pari con colui che era pari all'anziano signore fu passato, il suo animo fu colto da un abbattimento che era quasi un rammarico. Quando pensava al buco nel muro ora vuoto, che era stato pieno di argento di cui non aveva avuto bisogno, desiderò riaverlo indietro. Quella campagna, dopo tutto, avrebbe richiesto altre ore di fatica, e come diceva Olan, era lontana più di un li, che è un terzo di miglio. E anche l'acquisto non era stato un trionfo come si era immaginato. Era andato troppo presto nella grande casa, e l'anziano signore stava ancora dormendo. Era mezzogiorno, certo, ma quando aveva detto ad alta voce: «Dì all'onorevole anziano che è un affare importante, digli che si tratta di denaro», il guardiano aveva risposto senza esitare: «Oh, tutto il denaro del mondo non potrebbe tentarmi di svegliare la vecchia tigre. Sta dormendo con la sua nuova concubina, Fiore di Pesco, che ha da appena 3 giorni. Svegliarlo non vale la mia vita». E poi aveva aggiunto con una certa malizia, tirandosi i peli sul neo: «E non credere che l'argento possa svegliarlo. Ha avuto argento in mano fin da quando è nato». Alla fine la cosa era stata sistemata con l'agente dell'anziano signore, un viscido farabutto le cui mani erano appesantite dai soldi che vi rimanevano attaccati nel passarci. Così a volte Wang Lung aveva l'impressione che dopo tutto l'argento valesse più della terra. Si poteva vederne il luccichio. Però adesso la terra era sua. In una giornata grigia del secondo mese dell'anno nuovo andò a guardarla. Nessuno ancora sapeva che era sua. E si incamminò per guardarla da solo. Un lungo rettangolo di pesante argilla nera che si stendeva accanto al fossato che racchiudeva le mura della città. La misurò con attenzione: 300 passi in lunghezza e 120 di traverso. Quattro pietre mancavano ancora, marcavano ancora gli angoli dei confini, pietre che portavano il grande sigillo con l'ideogramma della casa dei Kvang. Beh, le avrebbe cambiate. In seguito le avrebbe tolte e avrebbe messo là il suo nome. Adesso no, non ancora, perché non era pronto a far sapere alla gente che era abbastanza ricco da comprare un terreno dalla grande casa, ma in seguito, quando fosse stato più ricco, e allora non sarebbe più importato nulla di quello che faceva. E guardando il lungo rettangolo pensò: «Per quelli della grande casa questo pezzetto di terra non significa niente, ma quanto significa per me?» Poi cambiò idea. Nel suo intimo fu pieno di disprezzo verso se stesso perché un piccolo pezzo di terreno poteva sembrargli così importante. Perché quando aveva tirato fuori con l'orgoglio il suo argento davanti alla gente, l'uomo l'aveva raccolto distrattamente nella mano e aveva detto: «Qui, a ogni modo, c'è abbastanza per qualche giorno di oppio per l'anziana signora». E l'ampia distanza che ancora c'era fra lui e la grande casa sembrò improvvisamente invalicabile, come il fossato pieno d'acqua davanti a lui, o come le alte mura al di là che si innalzavano dritte e vetuste davanti a lui. E si sentì allora pieno di una rabbiosa determinazione e disse al suo cuore che avrebbe continuato a riempire d'argento quel buco fino a quando avesse comprato dalla casa dei Huang così tanto terreno che ai suoi occhi quel campo sarebbe stato meno di un pollice. E così quel campo divenne per Wang Lung un segno e un simbolo. Arrivò la primavera con forti raffiche di vento e nuvole stracciate cariche di pioggia, e per Wang Lung le giornate invernali, trascorse in semiozio, lasciarono bruscamente posto a lunghe giornate di estenuante fatica nei campi. Il vecchio adesso badava al bambino e la donna lavorava con l'uomo dall'alba finché il tramonto non scendeva sui campi. E quando Wang Lung un giorno si accorse che lei era nuovamente incinta, fu dapprima irritato al pensiero che durante il raccolto non sarebbe stata in grado di lavorare. Così le gridò, pieno d'ira per la fatica: «Hai scelto apposta questo momento per figliare un'altra volta!» Lei rispose con fermezza: «Stavolta non è niente, solo il primo è difficile». Oltre a questo non venne detto altro sul secondo figlio, dal momento in cui Wang Lung si accorse di come crescendo le gonfiasse il corpo fino al mattino in cui lei posò la zappa e si trascinò in casa. Quel giorno lui non tornò nemmeno per il pranzo, perché il cielo era pesante di nuvole che promettevano tuoni e il suo riso era maturo per essere raccolto in fasci. Più tardi, prima del tramonto, lei di nuovo lo raggiunse, il corpo appiattito, esausto, il viso silenzioso e impassibile. L'impulso di Wang Lung fu quello di dire: «Per oggi hai fatto abbastanza, vai e stenditi sul tuo letto». Ma la sofferenza del suo stesso corpo spossato lo rese crudele, e si disse che quel giorno aveva sofferto col suo lavoro tanto quanto lei col suo parto, e chiese soltanto fra un colpo di falce e l'altro: è maschio o femmina? E lei rispose con calma: è un altro maschio. Non si dissero altro, ma lui fu contento e l'incessante piegarsi e curvare la schiena sembrò meno duro. Continuarono a lavorare fin quando la luna sorse sopra un banco di nuvole purpuree, finirono il campo e andarono a casa. Dopo la cena, e dopo aver lavato in acqua fredda il proprio corpo bruciato dal sole e sciacquato la bocca con il tè, Wang Lung andò a vedere il suo secondo figlio. Olan si era stesa sul letto dopo aver cucinato il pasto e il bambino era adagiato accanto a lei, un bambino florido e placido, grosso ma non come il primo. Wang Lung lo guardò e poi tornò contento nella stanza centrale. Un altro figlio e poi ancora un altro e un altro ogni anno. Non si poteva fare tutto quel traffico con le uova rosse ogni anno, bastava averlo fatto per il primo. Figli ogni anno. La casa era piena di buona fortuna. Questa donna non gli portava altro che buona fortuna. E gridò allora suo padre: ecco, vecchio, con un altro nipote dovremmo mettere il grande nel tuo letto. Il vecchio fu felice. A lungo aveva desiderato che il bambino dormisse nel suo letto e scaldasse la sua carne vecchia e fredda con le sue giovani ossa e il suo sangue, ma il bambino non voleva lasciare la madre. Adesso invece, barcollando sui piedini, ancora instabili, e guardando il bambino nuovo accanto alla madre, e quasi comprendendo con i suoi occhi seri che un altro avrebbe preso il suo posto, si lasciò mettere nel letto del nonno, senza protestare. E di nuovo i raccolti furono buoni, e Wang Lung guadagnò argento dalla vendita dei suoi prodotti, e di nuovo lo nascose nel muro. Ma il riso, che raccolse dalla terra dei Huang, gli portò il doppio di quello delle sue terre. Il suolo là era umido e ricco, e il riso vi cresceva come le erbacce che spuntano dove non le si vuole. E adesso tutti sapevano che Wang Lung possedeva quella terra, e in paese si parlava di eleggerlo capovillaggio.